fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Ed eccoci qua a Ristorante Convento in compagnia di due amici, ma cosa dico due amici? Due collaboratori praticamente, giusto ragazzi? Giusto, giusto. Perché voi stasera mi avete aiutato in tanti giochi che abbiamo dovuto fare alle spose, confermate? Confermiamo tutto. Sì, abbiamo conosciuto le spose qui che sono state, hanno contribuito alla serata che è stato uno spettacolo. Sono fantastiche, giusto? Sì, davvero, veramente, vediamo, ragazze. Ti ricordi il nome della sposa? Ma lo chiedo al mio collega qui che... Mi sembra Diana, però non sono sicuro. Diana. Allora è l'amica che si chiama Diana. È l'amica, va bene. Mi ricordo il nome dell'amica. Allora, Agostino si ricorda dell'amica Diana. Ecco. Come mai per Diana mi viene a dire... Questo è... Questo è un vostro fan, non vede l'ora. Agostino è un tuo fan fuori che ti vuole tanto bene. Però appunto, che fai? Ti indica? Non lo so, fa niente. Ecco, vuole te dopo, sì. Ecco. Sei desiderato, Agostino, purtroppo non da Diana, ma da Teo. Da Teo di Bolzano. Hai fatto. Ecco. ti desidera. Ok. Torniamo, ecco, questi si scrivono, dopo ti scrivo, ok. Allora, torniamo a noi. In che cosa mi avete aiutato? Con la banana, no? Giusto? Sì, con la banana abbiamo fatto uno scherzo, diciamo, sì. Uno scherzone a questa sposa. Che cosa le abbiamo fatto fare? Diciamo che l'ha mangiata. Nutella sulla banana. Ecco, diciamo che non doveva mangiarla, doveva solamente pitturarla. E l'ha mangiata. E invece si è mangiata la banana. Che cavoli, è andata sì, così. Sì. È andata così. Voi da dove venite, ragazzi? Trezzo sull'Adda e Agostino. Buonate sopra. Ma voi siete amici, colleghi? Sì, colleghi di lavoro. Ah, quindi passate anche la settimana assieme? Sì. Siamo a turni insieme, quindi... Siamo sempre insieme, insomma. Infatti si vede che siete affiatati. Manca un nostro collega che l'abbiamo perso per... È qua che si aggira per il locale. Si aggira per il locale, però... Sta ballando? Ma non lo vediamo più, sarà perso. Eccolo qua, è comparso casualmente. Anche lui fuori dal nostro acquario. Lo troviamo dal vetro. Ecco, che fa? Aspetta, cos'è che... Vediamo cosa sta facendo. Vi guarda un po' minaccioso. Ha tirato fuori il cellulare. Si vuole immortalare. Eccolo, vediamolo. E salutiamo, che così è bello, anche se non ci vedono dalla radio. Stiamo facendo una fotografia, un selfie con l'amico collega. Lotteria di ricordo. Come si chiama il collega? Yuri. Ecco, ci fa le fotografie da tutte le parti. Magari c'è lettera di ricordo. Sì. È bello. È la vostra prima volta al convento? No, siamo già venuti per il mio compleanno, quindi. Quindi lo conoscete? Lo conosciamo, conosciamo bene. Sì, è magnifico Agostino? Sì. Bello, sì. Davvero, complimenti. Non te annoi mai, vero? Bello. Divertimento davvero. Continuo. Avete mangiato bene? Benissimo, da Dio. Meglio dell'ultima volta? Ancora meglio? Sì, direi di sì. La qualità si sta alzando sempre di più. Si equivale, buono anche l'altra volta. Però. Quindi sei sempre contento? Buono. Tutto sì, buono. Niente sì. Di male. Quando è il tuo compleanno, Mauro? Io l'ho fatto il 10 febbraio, quindi... Il 10 febbraio, questo, ecco, abbiamo dei segnali indicatori, niente. Purtroppo con questo segnale non possiamo fare altro che rispondere niente, ecco. È andata male. Ecco, non diciamo il segnale del vostro amico, però può capire, ecco. È inequivocabile. Ecco, quando un maschio dice triste è andata male, il segnale è facile da capire. Allora, quando è il tuo compleanno, mi hai detto? Il 10 febbraio. 10 febbraio, quindi è già passato. È appena passato, quindi... L'abbiamo recuperato alla grande. Abbiamo recuperato. Quindi è una specie di compleanno questo, praticamente. È un ritorno al mio compleanno che abbiamo festeggiato l'anno scorso. Quest'anno siamo tornati perché il locale ci è piaciuto. E siamo tornati volentieri. Torneremo ancora. Oh, è una minaccia? O una promessa? È una promessa. Sempre più in tanti. Noi tre siamo affiatati, quindi torneremo sicuramente. Bello. Ma voi uscite spesso tra di voi? Non sempre, per il lavoro, per gli impegni che abbiamo, però torniamo spesso comunque. Anche bello. Ecco, guarda, le ragazze fuori sono le ragazze di Ravenna, queste, ecco. che abbiamo ramen. Perché vogliono noi, Mauro, ben, siete, vogliono noi. Quindi dobbiamo andare. Da quando siete entrati in radio siete diventati dei sex symbol, perché bene, praticamente tutte le persone che passano qua davanti vi salutano bene, caldamente. Benissimo. Va bene, no? A voi non dispiace essere il sex symbol del convento? Agostino, sei dispiaciuto? No, ma siamo abituati, guarda. Siete abituati, sì, a essere... È una novità. È la dura vita del sex symbol, praticamente. Siamo nati belli, quindi... Esatto, quindi non c'è momento che camminate per strada e qualcuno non vi fermi per dire: ma tu sei un sex symbol, così? Ma saranno almeno 20 anni che andiamo avanti così. Saranno almeno 20 anni che andate avanti. Che vitaccia, cosa che vitaccia. Dici? Non ci facciamo più caso. Ormai è un'abitudine, guarda. Saluto tutti gli amici di Trezzo sull'Adda che sono venuti qua. So che stasera c'era una compagnia di Trezzo. Ah, ok. Che non conosco, però ho avuto modo di salutare, così che... E allora mi è giunta una domanda da qualcuno, ecco, e mi dice: ma com'è la vita del sex symbol? Cioè, cosa fa il sex symbol? Questo risponde il mio socio. Agostino, come funziona? Cioè, tu vai... Impegnativa? Non è impegnativa come domanda, neanche come vita. Come vita, però. No, ma come fai a gestire tutte queste richieste quando vai in giro per strada? Agostino, spiegaci. Mi dà una mano il mio amico qua, Mauro Colombo. Perché non da fare... solo non riuscirei. Ah, ecco, c'è la forza dell'amicizia che vi dà una mano per staccarvele di dosso, giusto? Mi dà una mano lui. Ecco, grazie che c'è Mauro. Ecco. Sì, quindi è un po' difficoltoso, come essere una star. No, non è star. Difficoltoso. Se c'è Mauro non è difficoltoso. È un divertimento. Non è una fatica. No, infatti... No, devo dire che noi siamo colleghi ormai da anni. Quindi ormai quindi il vostro lavoro è fare il sex symbol, diciamo, più il suo che il mio. Io, vabbè, non fare modesto, no, dai. Io per impegni ormai assunti non posso, ormai ho abbandonato la carriera di sex symbol. La lascio volentieri. Hai lasciato tutto altri. Il portafoglio clienti. Bravo, bravissimo. Ad Agostino, sì, ecco. Agostino. Ma no, ma neanche lui ormai. Anche Agostino ha appeso qualsiasi cosa al chiodo. Sì, Quindi basta per appendere qualsiasi cosa, chiodo, Ecco, giusto, bravo Agostino. Mentre l'altro vostro amico, anche lui vi aiuta in questa procedura. Lui si è, però, se qua nel locale si è perso. Eh sì, compare, scompare. Compare, riappare dopo. E va così. Però davvero bello il locale, bello il convento, bella la gente, bello davvero. Serio, bravo. Bello, piace. Musica bella. Bello tutto. Davvero, bello. Vale bello. La pena. E soprattutto ti mettono a tuo agio. Vi siete sentiti a vostro agio? Davvero, certo. Sì, soprattutto noi abbiamo anche cenato nel ristorante, siamo trovati veramente bene, al di là dei piatti buoni, ma proprio la cortesia, la brillantezza anche dei cuochi, dei camerieri, tutto quanti, tutti dall'inizio alla fine della serata, davvero bello. Bello. Bello, più davvero. Uno è venuto a farvi anche uno show dalla finestra, dal vetro. Ho visto prima, però non capisco io lo cosa... show, quello. Sì. Quindi avete gradito anche quello, immagino. No, non sappiamo. Non avete gradito? Si riferiva, ma... Però c'era uno show. Se era una donna era meglio. Vabbè, è andata così, questo passa il convento. Ragazzi, erano 5 minuti, sono diventati 8 minuti. È stato bellissimo conoscervi. Grazie. Abbiamo conosciuto i due sex symbol della. Uno di Trezzo, uno di Bonate. Ecco, ce l'abbiamo qua noi stasera, siamo fortunatissimi. E grazie. E niente, salutiamo tutti. Saluti da Mauro e da Agostino. Ciao ragazzi. Ciao.